Non c'è bisogno di spendere molte parole per dire quanto sia importante leggere. Lo dicono tutti, a scuola, a casa. Solo che ci sono diversi tipi di lettura e ognuno ha la sua importanza diversa dall'altro. Uno legge un bel libro di avventura ed è bellissimo perché entra dentro e viaggia. Uno legge un giornale e magari si arrabbia. Uno legge un libro di poesie, se è formato, e gode della poesia. Uno legge un manuale di cucina e prepara un buon pranzetto. Insomma, ogni tipo di lettura ha la sua utilità. Vi ho detto questo perché anche la Chiesa ha diversi tipi di insegnamento, uno diverso dall'altro e ognuno ha la sua utilità. Per esempio, l'insegnamento normale è il catechismo. Con il catechismo uno impara le verità fondamentali della sua fede. C'è la lettura della Bibbia o l'insegnamento, la lezione sulla Bibbia, e uno conosce questa che è la carta costituzionale della sua fede cristiana. Oppure c'è l'insegnamento professionale, teologico, quello che magari noi sacerdoti riceviamo per poter essere capaci a nostra volta di insegnare agli altri cristiani. E infine c'è l'insegnamento della predica, dell'omelia. Ognuno di questi ha un suo valore. Se io dovessi spiegarvi il Vangelo di oggi, Gesù che appare ai suoi discepoli mentre erano chiuse le porte del Cenacolo, se io dovessi farvi catechismo, a parte che durerebbe almeno mezz'ora, sarebbe bellissimo, e credo che al popolo cristiano manchi molto l'insegnamento. Mi metterei per esempio a spiegarvi la frase di Gesù che dà lo Spirito Santo e istituisce, usiamo una parola più facile, inventa il sacramento della confessione. Ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non... E se dovessi farvi mezz'ora, un'ora di catechismo, dovrei parlarvi della confessione. Come si fa? Se dovessi spiegarvi in un catechismo la frase che viene ripetuta due volte, venne Gesù a porte chiuse, sarebbe interessante, dovrei spiegarvi come mai Gesù poteva rendersi presente, usiamo un'immagine, una parlata proprio popolare, passando attraverso i muri, no? Come era fatto questo corpo di Gesù? E sarebbe interessantissimo, vi assicuro, dovremmo chiedere al Signore la grazia che noi sacerdoti abbiamo la fantasia di creare dei momenti di catechismo e voi abbiate la volontà di venire a imparare la vostra fede. La predica è un altro tipo di insegnamento, a parte che non dura così tanto, ma Papa Francesco ci invita a non farlo durare più di 10-11 minuti. Ma la predica ha un altro tipo di insegnamento. La predica ci chiama a dirci una verità del Vangelo per poi dire adesso viviamola. Non tanto impariamola, quanto viviamola. Dunque la predica serve moltissimo per la vita e io generalmente cerco di dire un solo concetto, e anche oggi sarà così, affinché uno va a casa e dice, ecco, mi porto a casa questa idea oggi. E l'idea che mi piacerebbe che portaste a casa è questa. Gesù che dice a Tommaso: caro Tommaso, tu adesso ci credi perché mi hai visto, ma sono veramente beati, fortunati, coloro che crederanno in me senza vedermi. E questi siamo noi, che crediamo in Gesù senza vederlo. Ma è davvero così, cari amici? È davvero così? Noi crediamo davvero in Gesù senza vederlo? Io dico di sì, perché se siete qui a messa, Gesù non lo vedete, però voi venite. E tuttavia abbiamo bisogno di crescere in questo, perché noi abbiamo, nelle nostre città, nei nostri paesi, la presenza di Gesù vera, reale, nel tabernacolo. Ma quanto poco noi crediamo in questo. Si viene in chiesa ed è un mercato. Ma come? Siamo davanti a Gesù? Finisce la messa, è una baraonda. Ma come? Abbiamo fatto così bene durante la messa in silenzio, cantando, pregando, rompete le righe, sembra che non siamo più neanche in chiesa. O ancora, la chiesa è aperta tutto il giorno, uno passa via e non sente il desiderio di entrare a salutare Gesù. Perché Gesù c'è, ci dice la nostra fede. Beato te se crederai in me, dice Gesù, senza vedermi. Allora io vorrei lasciarvi proprio questa idea nella predica di oggi, amici. Cresciamo nella nostra fede cristiana imparando a riconoscere la presenza di Gesù nel tabernacolo. Perché si costruiscono delle belle chiese? Per la presenza di Gesù. Tant'è vero che tu, quando insegni a tuo nipotino, dici: la chiesa è la casa di Dio. Non è una verità completa, però è anche vera. Si costruiscono degli altari molto belli in onore della presenza di Gesù nel tabernacolo. Si mettono dei fiori sull'altare, sulla mensa e sull'altare, in onore della presenza di Gesù. Si accendono le candele. Non abbiamo bisogno delle candele, ormai abbiamo le lampadine con tanta potenza. Perché le candele? Perché quella candela rossa accanto all'altare? Per dire: attenzione, ricordati che qui c'è Gesù nel tabernacolo. Beati noi se senza vedere Gesù ci crederemo. E allora concludo con un invito. Venite a trovare Gesù da soli durante il giorno. Ma uno può passare mezzo minuto, un segno di croce, un Padre nostro, un gloria a Dio e poi andarsene. Sì che fate bene a venire ad accendere la candela alla Madonna, ma la Madonna non c'è. C'è solo una statua. Gesù c'è. Corpo, sangue, anima e divinità. E questo sarebbe un bellissimo catechismo da spiegarvi. Corpo, sangue, anima e divinità. Gesù è lì e noi dovremmo venire. Vi invito a venire qualche volta e starci almeno un quarto d'ora. Io lo chiamo venire a prendere il sole di Gesù. E vi faccio questo esempio. Se tu vai in spiaggia a prendere il sole, che tu stia lì come fanno le donne con il collo tutto tirato per non prendere le rughe sotto il mento, che tu stia lì a leggere il giornale o che tu preferisca giocare a bocce, che tu ti metta a parlare o che tu cammini avanti e indietro lungo il bagnasciuga, Non ha importanza quello che tu fai, ma il sole ti scalda e ti abbronza. Perché non dipende da te, è il sole che ha questa capacità. La stessa cosa se tu vieni davanti al tabernacolo, che tu stia lì nella panchina e ti venga in mente che devi andare a casa perché si è fatto tardi, o che ti venga in mente che hai dimenticato di comprare quell'oggetto e devi prendere la macchina e devi andare in negozio a prenderlo, oppure che tu, stanco come sei, ti lasci andare a sonnecchiare. Qualsiasi cosa tu faccia davanti al tabernacolo, il sole di Gesù ti abbronza, ti scalda, perché la capacità di abbronzarti non sta nelle cose che tu fai, ma sta in Gesù. Certo, amici, dobbiamo credere a questa parola di Gesù. Tommaso, Tommaso, beati coloro che crederanno in me senza vedermi. Allora vi faccio questo augurio: imparate ogni tanto a venire al sole, ma dovete fermarvi almeno un quarto d'ora, se no non fai tempo a scaldarti.